La teoria delle stringhe è nata... È democratico perché... Per OGM si intende... L'effetto placebo... Da Baikonur. È rimasta quella di Darwin. La mia risposta è che non lo so. Caccia al fotone. Scienza e dintorni su Radio Città Fujiko. A cura di Fabio De Sicò. Sabato 7 marzo 2009 e benvenuti a un'altra puntata di Caccia al Fotone. Su internet www.cacciafotone.it. Per i contatti SMS 333 180 94 94 e per le email cacciafotone@radiocittafujiko.it. E in questo sabato proveremo a parlare di neuroni a specchio. E attenzione, attenzione, ne parleremo proprio col suo scopritore, Rizzolatti. Buongiorno professor Rizzolatti. Buongiorno. Il professor Giacomo Rizzolatti è direttore del Dipartimento di Neuroscienze presso l'Università di Parma. E professor Rizzolatti, all'inizio, come al solito, abbiamo 100 parole per descrivere la puntata e quindi la prima domanda iniziale è: che cosa sono i neuroni specchio? I neuroni specchio sono un particolare tipo di neuroni che rispondono, si attivano, sia quando la persona, l'uomo, l'animale fa un'azione o quando la vede. Quindi la sorpresa di questi neuroni è che hanno due funzioni diverse, quella percettiva e quella di agire. E la bellezza è che in qualche maniera unificano due funzioni psicologiche diverse, cioè l'azione e la percezione. Professor Rizzolatti, noi ci lasciamo con un pezzo musicale e poi torneremo subito in studio. Benissimo. E bentornati a Caccia al Fotone. Quest'oggi parleremo di neuroni specchio. E allora andiamo a cominciare. Organizza la tua mente in nuove dimensioni, libera il tuo corpo da taviche e oppressioni. Allora, erano gli anni Ottanta e Rizzolatti, Gallese, Fogassi e Fadiga furono i favolosi quattro che insieme trasformarono le neuroscienze un po' come i Beatles trasformarono la musica. Questa frase l'ho tratta dal libro di Marco Iacoboni, I neuroni specchio. Veramente voi quattro avete rivoluzionato le neuroscienze? Ma forse sì, ecco, è difficile dirlo. Di solito questo dovrebbe essere una specie di affermazione che deve fare qualcun altro, non colui che ha fatto la scoperta. Comunque indubbiamente hanno avuto un grosso impatto sulle neuroscienze, su questo non ci sono dubbi. Mi spiega esattamente come sono stati scoperti questi neuroni specchi? Innanzitutto no, anni 80, anni 90, lì anni 90. Marco Iacoboni probabilmente sbaglia, cioè noi abbiamo incominciato a fare quelle ricerche all'inizio degli anni 90 e noi invece negli anni 80, io con altri, non con i nomi che ha citato lei, studiavamo l'organizzazione della corteccia motoria e ci eravamo imbattuti in un particolare tipo di neuroni che adesso si chiamano neuroni canonici, che sono importanti per trasformare un oggetto in un'azione. Cioè se lei è di fronte a una mela sa immediatamente come bisogna pigliarla, la piglia con tutta la mano, se invece è di fronte a un semino la piglia con due dita. Ecco, questo tipo di processo che noi facciamo automaticamente ha una base neurale e noi abbiamo scoperto che c'erano dei neuroni che trasformavano l'oggetto in un movimento, in un movimento potenziale. Non è detto che io immediatamente pigli la mela o il semino. Ecco, questo era il nostro tema. E in quegli anni, mentre facevamo quella ricerca, intanto si era cambiato il team, erano arrivati questi ragazzi giovani che erano i miei studenti, Galese, Fadiga e Fogasci. Ci siamo accorti che mentre studiavamo appunto queste altre proprietà c'erano dei neuroni che si attivavano, che volevano non solo la presentazione dello stimolo ma un'azione su quello stimolo. Cioè non bastava fargli vedere una mela, bisognava che la mia mano pigliasse la mela o che un'altra. E interessante era che c'era una netta congruenza tra quello che facevo io e quello che faceva la scimmia. Cioè se Fogassi afferrava un piccolo oggetto, lo stesso succedeva se la mela afferrava un oggetto. Ecco, a questo punto è venuto fuori il concetto di neurone specchio, quello che faccio io e quello che fa l'altro. Ora, questo perché è molto interessante? Perché indica che quando io faccio qualcosa nel sistema motorio, nel cervello dell'altro, c'è la stessa coppia. E quindi io riesco, questa è stata la nostra interpretazione fin dall'inizio, riesco a avere una conoscenza immediata, esperienziale di cosa fa l'altro. Professore Cerlatti, la cosa interessante è che fino ad allora non si aveva assolutamente cognizione di questi neuroni specchio, giusto? No, assolutamente. Cioè l'idea generale, si pensava che tra il momento percettivo e il movimento ci fosse dei processi cognitivi complicati, anzi molti, cioè non è sbagliato, e ancora io penso che in molte condizioni io faccio Sherlock Holmes, cioè faccio un ragionamento, ma nella vita di tutti i giorni non è così. Se io vado al bar e vedo uno che afferra un bicchiere di birra, non faccio un ragionamento: ah, una mano, un bicchiere di birra, si toccano, quindi ho capito che piglia la birra. Ho una maniera diretta, immediata di capire, e questo perché si riflette nel mio cervello quell'azione con qualcosa che so fare io. Professore Sorati, se volesse fare una storia di questa scoperta nel corso degli anni, da quando avete fatto la scoperta fino ad ora, quali sono gli sviluppi, quali sono i risultati nuovi che hanno portato nelle neuroscienze? Cioè lo sviluppo è stato questo: noi appena visto che questo fenomeno c'era nella scimmia abbiamo fatto due cose. Uno, ci siamo precipitati a Milano, a San Raffaele, dove c'era a quel tempo l'unico centro funzionante in Italia di brain imaging, allora c'era la PET, e in collaborazione con l'attuale ministro o quasi ministro della salute, con Fazio e i suoi collaboratori, abbiamo potuto dimostrare che le aree motorie nell'uomo si attivavano quando vedeva la persona afferrare un oggetto. Quindi questo è stato un grosso passo avanti, perché è stata la dimostrazione dell'uomo. E simultaneamente a Parma, insieme con Fadiga e Pavesi, che è un neurologo, usando una tecnica di stimolazione del cervello, abbiamo potuto dimostrare che è un'altra tecnica, adesso non sto a raccontare, che effettivamente nell'uomo c'era questo sistema. Poi le scoperte fatte a Milano, e successivamente sono andato a Los Angeles dove c'era un'attrezzatura più complessa, hanno visto che si attivavano anche le aree del linguaggio. Questo suscitò di nuovo un enorme interesse, perché movimenti della mano attivano un'area del linguaggio, quindi forse il linguaggio non è solo parlato, ma anche il linguaggio dei segni effettivamente è qualcosa di naturale e non imposto. Quindi ci fu questo nuovo filone, quello dell'interesse tra neuroni specchio e linguaggio. E poi ci fu il boom dei filosofi, dei sociologi, che trovarono che era molto interessante avere un sistema di comprensione immediato. E infatti la domanda che le volevo fare, la prossima, era proprio questa: come l'avete presa il fatto che persone diverse dalle vostre discipline, quindi filosofi, si siano occupati proprio dell'esistenza di questi neuroni specchio? Questo dimostra che sono quasi interdisciplinari. Assolutamente, moltissimo. Anzi, io le devo dire la verità, che la prima volta sono un po' stupito, perché mi è arrivato un invito al Collège de France da parte di un filosofo francese, Jean-Luc Petit, di andare a fare una conferenza ai filosofi su un qualcosa che io pensavo fosse molto limitato alla medicina, ma non certamente anche alla filosofia. Però dopo, discutendone, parlandone, insomma, indubbiamente è molto simile quello che noi sosteniamo a certe posizioni filosofiche come quella di Husserl, di Merleau-Ponty, quindi effettivamente c'è stato un impatto filosofico. Poi c'è stato un impatto anche, direi, sociale, perché i neuroni specchio in qualche maniera hanno, insieme con i lavori di Damasio sulle emozioni, un po' distrutto l'idea della psicologia cognitiva, che noi siamo degli individui soli, isolati del mondo e che elaboriamo l'informazione. Ecco, negli anni 70-80 era questa l'idea generale: ogni individuo è una monade, elabora la sua informazione, gli algoritmi, eccetera. Invece i lavori di Damasio e di altri sulle emozioni, i lavori di Kahneman, il premio Nobel, sulle decisioni, e poi i neuroni specchio hanno dimostrato che non è così. Noi siamo molto legati agli altri, è un continuo contatto con gli altri, non siamo affatto delle monadi isolati. Professor Rizzolatti, nella rete, insomma, anche sui libri, viene raccontata una storia in cui uno dei ricercatori del gruppo prese una banana e è successo qualcosa. Lei nel fuori onda mi ha detto che questa non è una storia vera. Esattamente come è andata la prima scoperta dei neuroni specchi? No, quello che lei cita è una leggenda metropolitana, ma l'inventrice io penso sia quella Sandra Blacksley, che è una scrittrice, una divulgatrice che scrive per il New York Times, che raccontò questa storia in un paginone del New York Times, questi italiani così fantasiosi. In realtà noi di solito non mangiamo gelati di fronte alla scimmia o quindi no, è stata una cosa più incrementale, cioè noi facendo quegli esperimenti che ho detto prima vedevamo che c'erano dei neuroni che sorprendentemente sparavano quando noi afferravamo un oggetto. A proposito, cosa vuol dire quando diciamo che i neuroni sparano? Ecco, i neuroni hanno un'attività, cioè hanno un codice di frequenza, fanno tac tac tac tac tac tac, ecco, questo generano dei potenziali elettrici. In genere è una tradizione ormai nelle neuroscienze quello di connettere questi potenziali elettrici a un altoparlante, per cui il fisiologo, il neurologo, quello che sente sono questi spari, per cui nel gergo si dice il neurone spara, genera questi potenziali d'azione, questi segnali che sono tutti uguali l'uno all'altro e che cambiano di frequenza quando il hai trovato lo stimolo giusto. Professore Rizzolatti, nella prima parte abbiamo parlato un po' di storia, ma adesso nella seconda parte parleremo veramente di scienza, quindi cercheremo di capire esattamente che cosa sono i neuroni a specchio nel dettaglio. Adesso mandiamo un altro po' di musica, poi torniamo in studio e cominciamo davvero con la trasmissione. Perfetto. Professor Rizzolatti, si dice che nella scienza il progresso avanza per funerali. Chi abbiamo seppellito? Beh, proprio seppellito non mi piace, la parola è un po' tragica, ma sicuramente penso che le nostre scoperte hanno molto modificato la psicologia cognitiva. Direi che forse sono loro che hanno subito il colpo più forte, l'idea che esistono tanti box, ogni box ha nel cervello, e che ogni box fa degli algoritmi particolari, che quindi il cervello insomma è una specie di computer. Ecco, questa concezione direi forse defunta completamente. Abbiamo cominciato la trasmissione con quelle 100 parole iniziali che spiegavano che cos'erano i neuroni specchio. Esattamente come sono strutturati? Sono tondi? Come sono fatti? No, beh, insomma, innanzitutto non lo sappiamo come sono fatti, perché non abbiamo mai registrato intracellularmente, che sarebbe l'unica maniera per colorare un neurone e vederlo. Però le fette da cui registriamo l'istologia ci indica che sono come tutti gli altri, sono delle cellule piramidali simili ai loro vicini, ecco, non si differenziano per l'aspetto ma per le connessioni, e quello che ricevono è diverso. Cioè la funzione del sistema nervoso non si basa tanto sulla morfologia della cellula ma sulla connessione che questa cellula ha con altre aree. Quindi più che avere una morfologia, diciamo che hanno una funzione. Esatto, proprio così. Perfetto. Esattamente quanti sono? Riusciamo a contarli? No, ma sai, è difficilissimo contare, perché noi abbiamo miliardi di neuroni, quindi dare una stima, però statisticamente noi sappiamo che ad esempio nell'area premotoria, la chiamiamo area F5 nel linguaggio nostro, sono tra il 15 e il 20%, nelle aree parietali forse un po' meno perché sono frammisti ad altri tipi di neuroni, nelle aree emozionali non sappiamo niente, perché per ora la dimostrazione è stata fatta dell'uomo e quindi la percentuale non è possibile saperla. In quali animali sono stati riscontrati esattamente i neuroni specchio? Sono stati riscontrati prima della scimmia, poi nell'uomo e poi recentemente un lavoro molto bello negli uccelli, quelli in cui il canto conta molto, sono degli uccelli che comunicano parlando mediante, diciamo, il canto. Poi quello che si vorrebbe fare, questo è un progetto che abbiamo noi ma anche altri laboratori, è vedere se c'è degli animali inferiori, tipo i roditori. Questo perché per ragioni mediche sarebbe molto utile. Ma lei diceva che è molto difficile dal punto di vista sperimentale. Sì, guardi, il problema è questo, che di fronte alla scimmia uno fa delle smorfie e la scimmia ti risponde. Tu pigli, cioè, la scimmia è un animale che è molto simile a noi per certi aspetti, ovviamente gli mancano gli aspetti cognitivi più importanti, ma per l'organizzazione motoria, per l'organizzazione visiva è simile a noi. Quindi possiamo facilmente comunicare con la scimmia. Comunicare con un topo è molto difficile, perché dovrei avere un topo attore, un topo osservatore e fare il registro dei due animali. E non è facile. No, adesso pensiamo con altri gruppi di vedere con gli stimoli acustici, ad esempio i topini appena nati emettono dei suoni che la madre capisce, e ci sono dei topini geneticamente modificati che hanno dei suoni diversi che la mamma non capisce, quindi quello potrebbe essere forse una strada sia per capire meglio i neuroni specchio in questi animali, se ci sono innanzitutto, e poi vedere se qualche cosa di questo genere può essere utile per l'autismo, per la comprensione maggiore dell'autismo, che è una delle cose più interessanti che stanno uscendo fuori dagli ultimi lavori sulle pubblicazioni. Dunque, lei dice come applicazioni pratiche o come conoscenze? No, come conoscenze per il momento. Io direi che come conoscenze quello che si sta sempre più affermando è che non ci sono dei neuroni specchio ma che c'è un meccanismo specchio, cioè che questo tipo di fenomeno che noi abbiamo scoperto delle aree motorie si trova in vari altri centri e quindi interviene anche nella comprensione delle emozioni, addirittura delle emozioni più complesse, come quello che in inglese viene chiamato il regret, il rimpianto. Cioè se io faccio qualcosa e potevo farlo meglio, mi si attivano certe aree corticali. Se vedo un altro, un mio amico, che ha fatto qualcosa e poteva fare meglio, mi si attivano quelle stesse aree. Quindi è una specie di comunicazione di emozioni superiori che mi sembra molto interessante, che direi afferma ancora di più quello che dicevo prima, della nostra capacità di stare assieme agli altri, di avere empatia con gli altri. Oh, parole come amore, empatia, amicizia avranno senso in futuro oppure questo rivoluzionerà tutto? No, io direi anzi, guardi, qui come sempre bisogna avere presente la base naturale e poi la società. Cioè noi nasciamo con un meccanismo che ci fa stare bene con gli altri, che noi siamo contenti quando gli altri siamo solo contenti, però dopo ci sono delle influenze culturali molto forti. Indubbiamente, ad esempio, in certe professioni questo tipo di empatia potrebbe essere anche nociva. Tutto sommato il chirurgo deve diventare distaccato nel momento in cui opera, non può essere molto empatico, non può dire oh mamma mia quanto soffre il mio paziente e così via. E poi ci sono addirittura dei mestieri in cui si cerca in qualche maniera di eliminare questa empatia. Mi dicevano che le forze speciali in certi paesi fanno dei training particolari per non avere queste reazioni naturali. Quindi È la società che poi deve usare questo strumento a fine di bene o bloccarlo. Professore Solatti, prima parlavamo del meccanismo dei neuroni specchio, che abbiamo detto che più che essere un meccanismo di neuroni specchio è un meccanismo specchio, quindi un meccanismo che di utilizzano connessione. Esatto, un meccanismo di connessione. Ma esattamente i neuroni, quindi, che cosa fanno? Prendono un'informazione, la mettono in memoria, che cosa succede esattamente? I neuroni fanno il loro dovere, cioè ad esempio i neuroni motori sparano tutte le volte che io afferro un oggetto, però hanno delle connessioni con particolari aree visive, per cui quando io vedo un altro fare si crea lo stesso pattern di quando faccio io l'azione, e quindi io, avendo dentro il mio cervello lo stesso pattern di quando lo faccio io, capisco che lei sta afferrando un bicchiere di birra, perché io la afferro nella stessa maniera. E non potrei verificarlo in altro modo, perché in quel momento non sta facendo nessun'altra operazione. Beh sì, certo, se io faccio qualcos'altro è più complicata la cosa, sì, diventa più complesso. Però forse qui è importante questo, che il concetto è che io più cose so fare, meglio capisco gli altri. Se io ho giocato a tennis, capisco il giocare a tennis. C'è un bel esperimento fatto da dei ricercatori di Verona e Roma sui giocatori di pallacanestro. Il professionista capisce da come uno inizia a buttare il pallone dentro il cesto, se sarà canestro o no. Mentre un giocatore anche bravo, dilettante, sbaglia. Talvolta dice, una volta la piglia, talvolta no. Quindi capisce, più io conosco motoricamente le cose, più capisco gli altri. E questo non avviene solamente con i movimenti, ma avviene anche con l'emozione, come sono state. Però con le emozioni è più difficile educarle, no? Cioè, sì. I movimenti, io posso prendere un maestro di tennis e divento bravo, miglioro, i calciatori capiscono benissimo come giocano gli altri. L'educazione delle emozioni la vedo un po' difficile, forse l'arte, la musica potrebbero essere dei grimaldelli per riuscire a entrare in una migliore empatia di questo tipo. Nel suo sito di Cacciafotone, che ricordo è www.cacciafotone.it, abbiamo messo una piccola immagine del cervello. Sì. Esattamente dove sono collocati questi neuroni specchio? Ecco, io non ho sotto mano l'immagine, ma una regione, stiamo parlando adesso del primo circuito, quello che serve per capire quando uno piglia la birra, per intenderci, e queste sono due aree coinvolte, una è nel lobo parietale e una è l'area premotoria. Nell'uomo sarebbe F5, nella scimmia sarebbe F5, nell'uomo è immediatamente al davanti al solco centrale. Perfetto, e sono anche colorate in maniera diversa e si vedono preso, esattamente. Sì, sì. Esatto. Ora, per le emozioni invece sono tutt'altre aree, una si chiama insula, e non credo che si veda nell'immagine che voi avete, perché è nascosta dentro il solco silviano. Infatti. E l'altra è sulla faccia mediale dell'emisfero, là dove i due emisferi si guardano, insomma, l'uno con l'altro. Possiamo dire, insomma, che i neuroni specchio pervadono tutto il cervello, quindi non hanno una casa. Non hanno una casa, questo sì è vero, perché poi, ad esempio, cosa che forse nella figura che avete non c'è, per i gesti simbolici, che sono proprio dell'uomo, non l'hanno le scimmie, c'è un'altra area che diventa attiva. Recentemente con un gruppo belga a Lovanio abbiamo visto che per l'uso degli strumenti, quando noi usiamo gli strumenti, ad esempio, non so, un rastrello, si attivano certe aree che nella scimmia non ci sono, mentre noi ci sono, perché noi capiamo l'uso degli strumenti, quindi sono abbastanza pervasivi, ma non sono dappertutto ovviamente. Summer long, endless days of happiness, but now they're all gone. Do you remember all the white winters, ice skating crystals on the cold windows? But nowadays it never snows around here. I'm afraid it never. Back again, I ain't lying about the day. Professor Rizzolatti, allora il primo sms chiede: il comprendere viene prima del linguaggio? Certamente. Gli animali capiscono il comportamento degli altri, eppure non sanno parlare. Il linguaggio è un'acquisizione molto tardiva. Se lei parla del linguaggio come linguaggio umano, insomma, se parla invece del linguaggio come segno dei movimenti, insomma, la comprensione, io penso che però il suo lettore chiede il linguaggio come parola, viene molto dopo sicuramente. E poi il secondo messaggio è un messaggio più delicato e chiede: io che amo molto, ho la possibilità di avere più neuroni a specchio di un altro? Questo è un problema effettivamente vero, cioè io penso, c'è un dato oggettivo, cioè ad esempio per quanto riguarda le emozioni, le donne sono molto più brave a captare le emozioni e a reagire alle emozioni, direi su questo non c'è dubbio, e degli esperimenti che facciamo anche noi attualmente denotano un nettissimo differenza, addirittura nei bambini, a 5-7 anni le bambine reagiscono molto di più quando vedono una faccia che piange o una faccia che ride dei maschi, quindi direi che in questo senso il sistema dei neuroni specchio empatico è più ricco della donna. Per quanto riguarda quelli del movimento, non so, è difficile dire, perché poi sa, ci sono molti fattori di acquisizione, cioè uno può acquisirne di più. I ballerini ad esempio hanno un grandissimo patrimonio di neuroni specchio per il ballo che verosimilmente è dovuto alla loro pratica. Quindi diciamo che ci sono più neuroni specchio, almeno un meccanismo specchio più diffuso nelle donne piuttosto che negli uomini. Per quanto riguarda le emozioni. Le emozioni sicuramente, direi non ci sono dubbi. Professor Rizzolatti, siamo in conclusione di trasmissione, quindi l'ultima domanda che le voglio fare io invece è: che cosa si aspetta per il futuro delle ricerche sui neuroni specchi? Beh, noi ci siamo molto buttati in questi anni nel vedere i rapporti tra neuroni specchio e una malattia che purtroppo si sta diffondendo, che è l'autismo. Un po' perché le diagnosi sono fatte meglio, un po' forse per certe modificazioni della società, i bambini autistici o comunque con sindromi molto simili all'autismo aumentano e ci sono varie prove che hanno un danno del meccanismo specchio, quindi cerchiamo sia di vedere, trovare delle tecniche riabilitative, sia con altri, perché non è il nostro campo, di vedere di trovare delle basi invece proprio di tipo biochimico, istochimico, per capire il deficit. Professor Rizzolatti, grazie per aver partecipato a Cacciafotone, io saluto lei e tutti i nostri radioascoltatori, l'appuntamento è sabato prossimo, stessa ora, stessa radio, stesso fotone e come al solito... Ma un altro neurone. esatto, o fotone o neurone, dipende, e come al solito vi auguro una buona scienza a tutti, grazie ancora grazie Professor Rizzolatti, arrivederci.